Estás herido. Si è fatto male. Necesitas ayuda. Ha bisogno di aiuto? Ayúdenme. Mi aiuti. Estoy bien. Sto bene. Tengo que ir al médico. Ho bisogno di un medico. ¿Dónde puedo encontrar un médico? ¿Dove posso trovare un medico? Quisiera pedir cita para hoy. Vorrei prenotare un appuntamento per oggi. Podría llamar una ambulancia. Può chiamare un'ambulanza. Lo antes posible. Al più presto. Es grave. È grave. No es grave. Non è grave. Es urgente. È urgente. No es urgente. Non è urgente. Me siento débil. Mi sento debole. No sé qué me pasa. Non so che cosa mi succede. Me duele. Mi fa male. La cabeza. La testa. El estómago. Lo stomaco. La espalda. La spalla. La garganta. La gola. Me duele aquí. Ho dolore qui. Estoy mareado. Ho le vertigini. Me pica. Ho un prurito. Tengo fiebre. Ho la febbre. Estoy peor. Mi sento peggio di prima. Es grave. È grave? Es contagioso. Si può trasmettere? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosa devo fare? Tengo un resfriado. Ho il raffreddore. Tos. Tosse. Alergia. Allergia. Soy alérgico. Sono allergico. Intoxicación. Intossicazione. Necesito. Potrei avere. Aspirina. Aspirina. Pastilla. Pastiglia. Pomada. Pomata. Rayos X. Radiografía. Vomitar. Vomitare. Ten cuidado. Fai attenzione. Peligro. Pericolo. Es peligroso. È pericoloso.